Radio Grad, la radio libera e resistente. Il megafono, settimanale di informazione, politicamente scorretto. Un altro degli aspetti importanti della manovra di bilancio approvata in Parlamento a fine anno riguarda invece il settore militare, perché si capisce come le misure intraprese dal governo Meloni vanno proprio nella direzione di potenziare la spesa militare, ma con un intento anche di potenziare tutta la struttura securitaria e il controllo dei territori. Se guardiamo al personale delle forze armate e di polizia, si pensa ad esempio ad incentivi costruiti ad hoc a loro favore, mentre i lavoratori della pubblica amministrazione vedranno nel frattempo siglati i loro contratti con aumenti che arriveranno a poco meno di un terzo dell'inflazione registrata nell'ultimo triennio. Insomma, quando molti anni fa ormai si costruiva l'esercito professionale al posto di quello di leva, si diceva esplicitamente di dover favorire il passaggio di ex militari, una volta terminata la leva, alle dipendenze della pubblica amministrazione, riservando loro posti per concorsi pubblici e cercando quindi di favorire il reinserimento degli ex militari non solo nelle forze di polizia, ma in generale in tutta quanta la pubblica amministrazione. Ora che la militarizzazione della società italiana stia andando avanti imperterrita, lo si capisce da tanti fatti, ad esempio l'operazione Strade Sicure, che viene pensata per la difesa, la sicurezza nazionale e addirittura gli affari esteri, che viene prorogata fino al 2027 con un contingente ulteriore di uomini, che arriverà probabilmente a quasi 7.000 unità. Si spenderanno da qui ai prossimi anni solo per queste due operazioni qualcosa come 240 milioni di euro. Poi viene rafforzata, anzi viene rifinanziata tutta la partecipazione italiana al fondo di innovazione della NATO per un importo che tra il 2025 e il 2027 dovrebbe essere pari a 7.726.500 euro. Particolare impulso viene poi assegnato a tutti i programmi di ammodernamento, di rinnovamento degli armamenti, costruendo un apposito fondo spese di investimento del Ministero della Difesa. Ma se guardiamo con attenzione a tutta la spesa militare, ci rendiamo conto che non basta prendere in considerazione il capitolo di spesa del Ministero della Difesa, perché innumerevoli altre attività afferenti al settore militare fanno riferimento ai capitoli proprio di bilancio di altri ministeri. Ad esempio, all'interno della manovra di bilancio troviamo tutti gli investimenti di ammodernamento tecnologico per la difesa aerea, per il settore aeronautico, per il settore marittimo, per la difesa nazionale, l'acquisizione di nuove unità navali, investimenti fatti nel settore aeronavale. Insomma, il Parlamento italiano andrà a spendere una cifra astronomica, proprio se confrontata con quanto invece noi destiniamo come paese alla sanità o all'istruzione. C'è perfino il potenziamento del corpo delle capitanerie di porto, ci sono le risorse militari afferenti al Ministero delle Imprese del Made in Italy, proprio a dimostrazione che calcolare la spesa militare guardando solo al bilancio del Ministero della Difesa non è di assoluto aiuto, anzi dovremmo guardare complessivamente tutti i capitoli di spesa dei ministeri per quantificare in termini reali la spesa militare italiana. E troviamo scritto che tra le priorità del governo ci sono alcuni obiettivi, ad esempio fronteggiare l'eccezionale incremento dei prezzi delle materie prime, adeguare le configurazioni dei sistemi di bordo per evitare che ci siano strumenti di guerra, chiamiamo noi, o vecchi e vetusti. Attendiamoci quindi un esponenziale aumento della spesa militare che andrà verso missioni militari all'estero, piani di investimento per ammodernare tutti i sistemi di arma e anche per promuovere la ricerca e la tecnologia duale che poi è a uso e consumo del militare. Parlavamo prima del Fondo delle Missioni Internazionali all'estero che viene rifinanziato sia per il 2026 che il 2025 e poi anche per il 2027 con ulteriori fondi aggiunti rispetto agli stanziamenti del passato e a conferma che l'opera di reclutamento nelle scuole di ogni ordine e grado negli atenei da parte di esponenti delle forze armate sta avendo i suoi risultati, ci sono i numeri di giovani che stanno rispondendo ai bandi di reclutamento per l'esercito, che vedono migliaia e migliaia di unità in più, quindi una crescita esponenziale di giovani che decidono di investire il loro futuro nelle forze armate. Ora che questa manovra sia fatta di incentivi alle imprese, di iniquità fiscali, di tagli al sistema previdenziale e al welfare è risaputo. Del resto abbiamo tre aliquote fiscali, quando nel 1973 ce n'erano più di 40. Ma per avere poi anche un'idea chiara della manovra di bilancio dovremmo riguardare i documenti ufficiali, per esempio gli studi di Camera e Senato a proposito di una spending review che viene scaricata interamente su alcuni ministeri. Ecco, se guardiamo per esempio che cosa sta accadendo, ci rendiamo conto che il Ministero della Difesa ha sicuramente meno tagli di tanti altri settori, per esempio la manutenzione del territorio, per esempio tutti quegli interventi che si renderebbero necessari per l'ambito culturale o per l'ambito semplicemente anche della lotta al dissesto idrogeologico. Ecco, ci sono questi aspetti incontrovertibili che confermano come una manovra pessima che non aiuta la crescita dell'economia, che è decisamente a ribasso, le previsioni per il futuro sono decisamente inferiori alle attese e alle aspettative. Ecco, abbiamo davanti una manovra che invece investe tante risorse a fine di guerra. Con questo vi salutiamo, un saluto da Radio Grad. Il megafono, settimanale di informazione, politicamente scorretto.